Mi temono come un black block. Mi temono come un black block. Vai così, vai così. Mi temono come un black block quando faccio il beatbox. I miei dreadlocks si muovono con sto ritmo hip hop, tipo poco ortodosso. Sono la vox populi di un mondo sommerso ed amorfo. Io posso parlare di gente assente che considera sé perdente. Già si sente, questo rap è forte ed è potente. Tanta gente sa che in gente il cambiamento sente. Altra gente pensa che ci vuol ben altro, non fa niente. Malati e senza identità in questa città di Sassari, assassinati dalla noia. Io presi a sassimi, tu passi il tempo a farli, forse non puoi più guardarli. Questi bastardi che ti guardano male sono testardi. A volte sì, a volte no, ma non so. La mentalità di questo posto mi sta facendo grovo, ma trovo il tempo buono per scrivere un poco scovo. Giorno nuovo e giorno dopo un altro giorno nuovo. A volte poi mi dico basta, sono io un iconoclasta. Do un'immagine di Sassari che mi devasta e voglio stare in busta. Il resto della gente mi frustra, uscire m'assusta, al posto della testa c'han crusca. Tu mascherato da normale in un triste carnevale, il tuo vestito è il più brutto che si poteva fare. Doveva stare al posto suo questo tipo, ma dove crede di essere non ci ha capito un cazzo. Capito ti dico, un pazzo uscito da un mondo psico, munito del solo rap contro ogni suo nemico. Hai sconfitto qualcuno? Sì, quasi tutti ho sconfitto. E adesso non sto zitto né costretto né sotto invito. Do re mi fa sol la si, uso tanti linguaggi mi, tutte le note per fare i beat, vari concetti per i miei testi. Uso questi modi di parlare onesti, uso mesti modi di parlare con gli altri presti. La tua attenzione a me l'hai compreso, che è il rivoluzionario eclettico del rap, il riformatore. Non faccio film, non sono attore, non sono più di malumore, sono il dottor strano al cuore, ho una gran forza interiore. Se sei pigliato male o sei un po' giù e la tua donna non ti vuol più, ascolta il drastico rap ginnastico di questo plastico, gioca del voodoo. Se non capisci più che cosa è buono o no, e la risposta è sempre boh, ti dico a yo gumpa, vieni con me col funk e col mio flusso ti ubriacherò. Se sei pigliato male o sei un po' giù e la tua donna non ti vuol più, ascolta il drastico rap ginnastico di questo plastico, gioca del voodoo. Se non capisci più che cosa è buono o no, e la risposta è sempre boh, ti dico a yo gumpa, vieni con me col funk e col mio flusso ti ubriacherò.